Italia in controluce. Riparte una nuova settimana del programma di Radio 24 che tutti i giorni trasmette i reportage e le inchieste sulla cronaca, sulla politica, sul costume e lo spettacolo, un programma curato e prodotto da Daniele Biacchessi. I dirigenti della Lega hanno perso il contatto con lo zoccolo duro della sua base. La Lega è un partito organizzato, strutturato nel territorio e radicato in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e sbarcato da poco in Emilia, Marche e Toscana. Ma è ancora il partito monolitico di un tempo? Cristina Carpinelli entra oggi nella pancia della Lega. Stiamo pagando l'aver accettato completamente tutto quello che aveva detto il PDL per il federalismo fiscale, no? Ascolti, io sono una persona non giovanissima, ma con un gran seguito di amiche. Su 10, 7 non hanno votato per la Minetti, per la Santachè e per le donne impresentabili che Berlusconi. Stamattina ho sentito anche te, Sammy, alle 6 e le telefonate che sono state fatte di gente che per protesta dal voto a sinistra, ma stiamo scherzando. Volevo dire due cose. Sì. Prima cosa, dopo tanti anni, dopo aver preso tanta acqua l'anno scorso per reggere la bandiera, non sarò a Pontida. Perché? Perché tutta la nostra gerarchia, da boss in giù, si sono romanizzati. Dicono una cosa, poi ne fanno un'altra. Dico, pronto a combattere fino alla morte quando ritornerà. Questi che avete appena sentito sono i commenti pervenuti a Radio Padania nel corso delle elezioni comunali di Milano. Allora si disse che il malcontento era circoscritto. A dirlo però erano i vertici della Lega che andavano in questo modo a ridimensionare un malcontento che però è esploso da qualche giorno occupando di fatto i forum leghisti. Sul sito dei Giovani Padani, ad esempio, si legge: «Oggi la Lega è morta». E un altro: «Mi vergogno di quello che state facendo con il mio voto. È solo per salvare Berlusconi». Ma se la base è così arrabbiata, i sindaci leghisti, che sono quelli che hanno contatto diretto continuo con gli elettori, come si stanno muovendo? Siamo andati in giro tra montagne piemontesi, bergamasche, campagne venete, pianura romagnola e entroterra ligure per tastare il polso alla Lega. Per Paolo Tonin, sindaco leghista di Campo San Martino nel Padovano, è impossibile non accorgersi di questo malessere. Beh, guardi, io le dico questo, sicuramente oggi siamo in presenza di un qualche cosa che chiaramente non può vedere nessuno felice e contento, no? Cioè, al di là della base leghista, cioè, credo che sia la popolazione intera che oggi viene chiamata a una manovra, a dei sacrifici che effettivamente non sono di tutti i giorni. Di cose da dire ce ne sono, perché per carità, i tagli centrali sarebbero migliori che quelli dei comuni, i tagli dei ministeri idem, e le grandi pensioni d'oro idem. Cioè, qui siamo perfettamente d'accordo che prima si doveva iniziare a fare queste cose qua. Noi poi, diciamo, ecco, come Lega Nord, oggi paghiamo anche il fatto della manovra, perché a noi forse avrebbe potuto essere più comodo che lo Stato andasse in default, no? Forse il nostro progetto, che è il federalismo spinto e così via, sarebbe anche sarebbe stato accelerato. Su Facebook, alla pagina di Radio Padania, i messaggi sono ancora più duri. Ce l'hanno con Bossi, con Radio Padania, accusata di aver censurato i leghisti critici. Radio Padania Libera non è più libera, per l'ennesima volta hanno sospeso il forum, è una vergogna. La Lega ha paura di ciò che dicono e pensano i suoi elettori, scrive Filippo. E un altro aggiunge: stanno aggrappati come le cozze alle sedie, dimissioni, dimissioni. A Brignano Geradadda, nel bergamasco, il sindaco Valerio Moro è un leghista, vecchia maniera, puro negli ideali e attaccato al partito con grande slancio. Della base e del suo malumore si è accorto da tempo e ci racconta così. Beh, diciamo che indifferenza non c'è, sicuramente non c'è indifferenza. Ho notato chiaramente dei cambiamenti negli ultimi periodi. C'è chi è ancora profondamente legato e profondamente convinto, e chi magari storce un pochino il naso. E secondo lei perché c'è questo inizio di distacco? Ma perché certamente una formazione politica nata per scardinare il sistema, per proporsi, per proporre, si è un po' adagiata alle situazioni di palazzo. Poi in tanti casi giuste sicuramente, magari in tanti casi un po' meno, questo qui ha fatto venire meno un po' quello che era lo spirito o lo spirito insomma della Lega in certi casi. E lei a Brignano diciamo si sente di rappresentarla comunque la Lega, perché la Lega nelle situazioni locali funziona ancora comunque come esperienza politica? Sì, assolutamente, anche se sicuramente rispetto alla Lega di primo periodo le cose cambiano, stanno cambiando, cambiano le persone. Lei come sindaco sì. Diciamo, ha qualche sassolino da togliersi dalla scarpa rispetto al suo partito, oppure è in linea comunque con le decisioni prese dal partito? Ma no, ma cioè... In linea, chiaro che visto da sindaco e con le difficoltà in cui ci troviamo, tante cose non mi vanno bene. Chiaro, la situazione è questa, ne prendo atto e andiamo avanti. Ma lei il prossimo mandato si ricandida con la Lega? Allora, io sono assolutamente, cioè quando intraprendo una strada la porto fino in fondo. Qui da noi piccoli il malcontento è generalizzato, ce l'abbiamo con il governo centrale e con quello regionale, ci dice Mario Fortini, sindaco di Casteldelci in provincia di Ravenna. I comuni c'è un malcontento nei confronti della politica del governo che individuano i piccoli comuni gli errori di un'ipotetica casta che forse è individuabile altrove. Noi non siamo arrabbiati con la Lega, siamo arrabbiati col governo, ma anche con i governi regionali che sui piccoli comuni li vedo molto latitanti. È chiaro che la Lega, essendo un partito di lotta e di governo, un partito che si è caratterizzato per le grandi identità locali, regionali, per le grandi autonomie territoriali, è quella che paga un prezzo più alto di fronte all'impossibilità di dare, o alla non volontà, non so che dirle, di dare autonomia, identità ai piccoli territori locali. Insomma, ecco. Quindi diciamo è su questo punto che andrebbe fatta un po' di forza, cioè aumentare l'autonomia anziché addirittura toglierli, farli scomparire, certo. Questi comuni. Se un concetto di federalismo esiste, deve esistere in funzione degli costi standard. Allora intanto comincino a dire quanto sono i costi standard nei comuni. Poi quando gli dimostreremo che i piccoli comuni, sia da soli che in forme associate che già noi attuavamo senza bisogno che ci insegnassero nulla, quando dimostreranno che i nostri servizi costano di più, allora hanno ragione. Tasse e questione morale al centro del malessere della base, è questo che individua Francesco Chiara, sindaco di Cortazzone nel Piemontese. Secondo me il subbuglio magari potrà arrivare di più il prossimo anno, dove effettivamente si andranno a toccare magari le tasse dei contribuenti con alcuni ritocchi alle aliquote, questo è sicuro. Faccio il sindaco a tempo pieno e il contatto con i cittadini ce l'ho. È logico che comunque il malcontento è dovuto a tutta un'altra serie di fattori, non solo al ritocco della politica territoriale, ma più che altro è influenza dell'economia attualmente. Ma anche il fatto, cioè questioni anche più diciamo terra a terra, no? Da quello che ho capito anche ascoltando Radio Padania, cioè più il caso Minetti piuttosto che altri casi. Ma questo sicuramente, questo è fuori di dubbio, nel senso che comunque la classe dirigente dovrebbe assumere, diciamo così, un comportamento più deontologico. Insomma, la base spinge per rompere gli argini e dare un segno forte, una scossa, come si dice in questi casi, al partito, accusato d'essersi troppo romanizzato. I sindaci tengono botta e cercano di ridurre il danno. Il prossimo capitolo lo scriverà però proprio quella base che, come si sa, quando non è ascoltata urla. Avete ascoltato Italia in controluce, reportage di Cristina Carpinelli sulla base della Lega. Siamo tutti i giorni su Facebook, la pagina del gruppo, su Twitter. Siamo rintracciabili via mail a controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con un servizio di Barbara D'Amico sulle primarie.